Dottor Grimaldi, un lavoro immenso, finalmente a Bologna un'esposizione veramente fantastica. Quanto avete lavorato per tutto questo? Beh, il progetto nasce nel 2018, quindi le prime selezioni di materiale lo prendiamo nel 2018 e poi è un progetto che si è sviluppato, ha attraversato il Covid, ovviamente ha attraversato le difficoltà che abbiamo avuto tutti con il Covid, ma grazie a un enorme potere lavorativo di tantissime persone coinvolte è andato avanti, si è sviluppato negli Stati Uniti ed si è concretizzato finalmente qui a Bologna. Indicativamente quante opere? Sono 123 opere, 100 affreschi e una ventina di materiali che ci servono, molto belli ovviamente, di eccellente qualità, che ci servono a far capire il rapporto tra vita quotidiana, oggetto quotidiano e pittura. In questo caso è anche una separazione nelle sezioni mostra tra le realtà che ha citato? Abbiamo una mostra che affronta principalmente tre sezioni, una sezione delle tecniche e dei colori, una sezione dei repertori, quindi dei modelli e dei soggetti, e una sezione dei contesti, in modo da portare il visitatore all'interno dello spazio. Una quotidianità anche ripresa in tutto quello che è stata la vita dell'epoca. Assolutamente sì, ed era la cosa che colpiva poi i primi scavatori del Settecento, cioè trovarsi di fronte a delle persone che a distanza di 1700 anni vivevano così come si viveva nel Settecento. Nell'Ottocento non è cambiato granché, se non la moderna informatica, la luce elettrica, ma fino ai primi anni del Novecento la sensazione era molto empatica. Chi erano i pittori a Pompei? Persone che si muovevano, persone che avevano contratti, persone che avevano un potere economico, persone che avevano sogni, persone che avevano decorazioni e che quindi potevano vivere. Ok, e soprattutto per terminare la nostra conversazione, oltre a questi aspetti, nel sacro, perché ho visto molte immagini nel mito, nella decorazione degli ambienti interni che abbiamo presentato non c'è una volontà, come dire, rituale. Sono tutte decorazioni che utilizzano soggetti mitologici eroici, però in ambito privato. Io la ringrazio tanto e le auguro buona giornata. Grazie a lei.